Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Passare dalle onde radio al laser sembra questa la nuova frontiera delle telecomunicazioni spaziali, questo almeno a giudicare dai numerosi progetti che stanno implementando in tutto il mondo reti di satelliti artificiali che comunicano tra loro ed eventualmente anche con la superficie terrestre per mezzo di raggi laser. Allora, sulla Terra, per inviare un impulso laser a grande distanza in linea di massima è necessario stendere una fibra ottica, ma nel vuoto dello spazio la luce laser viaggia indisturbata e può quindi essere usata per trasmettere dati da un satellite all'altro senza bisogno di alcuna infrastruttura di trasmissione. Per esempio, si parleranno per mezzo di laser i satelliti di Starlink, il forse più famoso progetto, diciamo, di internet spaziale, quello di SpaceX. Parliamo di una costellazione che a regime prevede più di 12.000 satelliti, per il momento ce ne sono in orbita 600, grazie al quale appunto sarebbe possibile disporre di una copertura internet a banda larga in qualunque punto della superficie terrestre. Ma la verità è che i progetti di questo tipo sono numerosi. Ne parliamo con il professor Francesco Topputo, docente di sistemi spaziali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano. Buonasera Topputo, benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, prima di tutto, perché? Perché questo passaggio alla tecnologia laser? Che tipo di vantaggi offre? Ma dunque, intanto diciamo che la comunicazione spaziale è avvenuta per 70 anni utilizzando onde radio. Adesso abbiamo cercato di spingere sempre di più la tecnologia radio per far fronte alla richiesta di sempre maggiore quantità di dati che si vogliono caricare a bordo dei satelliti o che si vogliono scaricare appunto dai satelliti verso le stazioni di terra. La tecnologia radio è ormai arrivata al limite, in quanto diciamo la capacità di dati che riusciamo a trasferire è arrivata appunto al limite, e a terra abbiamo sempre una maggiore domanda di dati via satellite. Pensiamo ad esempio all'utilizzo che facciamo guardando la TV via satellite. Inoltre la banda radio è ormai satura. Un terzo elemento che ci giustifica per applicazioni militari è un fattore di sicurezza. La comunicazione radio via satellite può essere intercettata, e se viene intercettata né chi trasmette nemmeno chi riceve possono rendersi conto di essere intercettati, mentre coi laser è più difficile, insomma, fare questo giochino. Coi laser è praticamente impossibile, perché intercettare un fascio ottico, intanto un fascio è molto molto più coerente, e quindi geometricamente devi stare in mezzo fra chi trasmette e chi riceve, devi stare fisicamente a metà strada lì in mezzo. E poi c'è anche l'internet quantistica, adesso non abbiamo tempo di parlarne, ma ne abbiamo parlato tante volte qui a Smart City. Insomma, ci sono le comunicazioni quantistiche che si possono implementare con i laser e sono molto più sicure. Quali sono invece le difficoltà? Dunque, la comunicazione laser spinge veramente al limite la tecnologia che abbiamo. A me verrebbero in mente un paio di difficoltà, poi magari la lista non è esaustiva, però c'è bisogno di un puntamento ultra accurato dei satelliti. Certo. Sappiamo che i satelliti hanno ottime capacità di puntamento, ma all'interno di queste prestazioni c'è sempre un margine di errore. Bisogna puntare un oggetto che è distante magari centinaia di chilometri e che viaggia anche a qualche chilometro al secondo, bisogna ricordarsi, quindi non è facilissimo. Esattamente, quindi parliamo di accuratezze di puntamento che sono dell'ordine dell'arco secondo, quindi una parte su 3600 di un grado, per cui è un'accuratezza di puntamento molto molto accurata. E poi, diciamo, un aspetto sicuramente più importante dal punto di vista tecnologico è quello della manifattura di specchi di precisione, che devono essere utilizzati nell'ottica che riceve o che addirittura emette il laser, per fare in modo che il fascio non si sporchi, tra virgolette, nel momento in cui passa attraverso l'ottica. Ecco, tra l'altro la precisione è ancora più difficile da raggiungere perché spesso questi sistemi si calcola, si considera che andranno a bordo di mini e micro satelliti, quindi oggetti molto piccoli. E se ho ben capito, questo è uno dei motivi per cui si punta sul laser, perché è più facile miniaturizzare un apparato laser che non un apparato che funziona con le onde radio. Beh sì, diciamo che sicuramente l'applicazione del laser segue in un certo senso la tendenza che c'è in questo momento nella costruzione dei satelliti. C'è una tendenza a fare sempre tutto più piccolo, a miniaturizzare i satelliti grazie alla elettronica che segue di pari passo appunto lo stesso trend. Per cui le applicazioni future prevedono l'utilizzo di tanti satelliti distribuiti, quindi parliamo anche di, come ha detto lei all'inizio, la costellazione Starlink, costellazioni costituite da centinaia se non migliaia di satelliti, ma tutti miniaturizzati dell'ordine, diciamo, per dare l'idea, la grandezza di una scatola da scarpe sostanzialmente e il peso di, non so, da 6 a 10 kg, che utilizzeranno per comunicare tra loro una comunicazione ottica, quindi infrarosso, all'interno dello spazio, sfruttando il fatto che non essendoci atmosfera non c'è attenuazione e quindi la comunicazione può avvenire in modo più efficiente. Allora, grazie Francesco Topputo, ci fermiamo qui ma ci diamo appuntamento a domani perché parleremo dei vari progetti che appunto sono nati su questo paradigma, quindi reti satellitali, numerose satelliti piccoli e trasmissioni laser. Grazie per intanto Topputo. Grazie a voi, buonasera. E allora cari ascoltatori, buonasera anche da parte mia e a domani. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.